Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: il rapporto della Corte dei Conti che in qualche modo entra nel filone già anticipato dalla Banca d'Italia, oggi sul Financial Times, la necessità di una manovra correttiva, un intervento del 3% sui conti pubblici all'anno. Attenzione, vuol dire 46 miliardi di euro. Perché questo? Per rispettare i nuovi vincoli europei sul debito e quindi una riduzione del 3% annuo del nostro debito significa appunto 46 miliardi. E questo lo ha ricordato la Corte dei Conti nel presentare il rapporto 2011 e ancora un aggiustamento paragonato, attenzione, a quello delle famose manovre, soprattutto quella Amato, se non ricordo male, ma anche ci fu quella Prodi, Ciampi e Dini, per entrare nell'euro. Dice infatti la Corte dei Conti come l'aggiustamento come dimensioni è paragonabile a quello realizzato nella prima parte degli anni 90 per l'ingresso nella moneta unica, e chi ha più di 30 anni si ricorda bene cosa significarono quelle manovre che permisero all'Italia di entrare nell'euro con il primo gruppo, che furono salutari perché l'euro, con tutti i problemi di applicazione che ha avuto, è stato comunque un modo per mettere in sicurezza i risparmi degli italiani, e su questo ormai mi sembra che ci siano pochi dubbi, anche chi era scettico all'inizio in questi anni si è ricreduto. Manovre però pesantissime. Ecco, 46 miliardi sono circa 100, no, un po' di meno, sono circa 89 miliardi, 89 mila miliardi delle vecchie lire, 46 miliardi di euro per 3 anni all'anno, perché insomma il 3% annuo. E questa è la prima notizia che ci fa subito evocare quello che ormai è il nostro commento così un po' ironico. Andiamo bene, proprio bene. Però oggi qualche notizia un po' più positiva c'è, non certo dalla Fincantieri, ce ne occuperemo in apertura. Già ieri abbiamo dedicato un ampio spazio, come immaginabili, 2500 licenziamenti annunciati hanno scatenato di tutto sia a Castellammare di Stabia che a Genova, e ve lo racconteremo. C'è anche la vicenda Lufthansa, si cerca di capire se veramente sia un abbandono di Malpensa oppure invece un riposizionamento più di carattere nominalistico. Ancora ci occuperemo poi nella seconda ora del programma della Corte dei Conti, come il tema ve l'ho già anticipato, il commento del ministro Tremonti presente oggi alla presentazione del rapporto 2011 è stato, il rapporto sulla finanza pubblica della Corte dei Conti presentato oggi, ha detto Tremonti, è un genere letterario non definibile come happy hours, ha detto scherzando. Poi ha detto forse la crescita non è sufficiente, ma senza la tenuta di bilancio non ci sarebbe stata neanche questa insufficiente crescita. Direi, visto che abbiamo riconosciuto in questi mesi e anni a Tremonti i meriti sui conti pubblici, direi che il forse può anche levarlo il ministro, la crescita non è sufficiente, punto. Chiedete, sono il 3% del PIL italiano, cioè un punto di PIL vale circa 15 miliardi, e 46 miliardi sono il 3% del PIL. Poi un po' di polemica con l'Istat, discutibile la rappresentazione della realtà, ha detto Tremonti, riferito al fatto che negli ultimi 10 anni un italiano su 4 è a rischio povertà. Giovannini, il presidente dell'Istat, ha replicato, i giornali hanno sì confusi gli indicatori della povertà con il rischio povertà, e Tremonti ha detto, insomma, negli ultimi 10 anni la ricchezza in Italia è cresciuta. Questo però lo sostiene solo il ministro, devo dirlo con totale franchezza, tutti gli indicatori della Banca d'Italia e dell'Istat ci dicono il contrario. Altre notizie in breve: giornata storica oggi in serata in Italia per il rilancio della Chrysler e l'integrazione con Fiat alle 8:15 italiana nello stabilimento di Sterling Heights della Chrysler. L'amministratore legato Sergio Marchionne firmerà il rimborso del debito di 7 miliardi e mezzo di dollari al governo americano e al governo canadese, prestiti ottenuti a suo tempo per traghettare la Chrysler, salvare la Chrysler e traghettarla verso l'operazione con Fiat. E sempre oggi Fiat salirà al 46% di Chrysler con il pagamento di circa 1 miliardo e 300 milioni di dollari. L'obiettivo è arrivare al 51% di Chrysler. La borsa come va oggi? Più 0,36% Milano, più 0,45% Parigi, quindi rimbalzano. Francoforte più 0,60%, Londra più 0,50%, l'America più 0,13%, l'euro in recupero a quota 1,41,30. Si respira dopo le tensioni del fine settimana sulla Grecia, ma anche sull'Irlanda. Di nuovo però le banche pagano, meno 1,60% il Banco Popolare, meno 1% il Popolare di Milano, meno 1% Monte dei Paschi e Intesa San Paolo. Meglio fa UbiBanca, meno 0,10%, su questo fronte segnaliamo che anche Unicredito è praticamente invariata. Chi recupera oggi? Tod's il 3%, Fiat il 2,5%, Saipem il 2,40%, Exor l'1,90%, Azimut più 1,80%, Pirelli più 1,70% come Luxottica, 1,5% lo guadagna Fiat Industrial, l'1,30% Tenaris e anche Eni, lo 0,90% Enel Green Power e Snam Rete Gas. Oro poco mosso a 1516 dollari, petrolio sempre sotto, seppur di pochi 100 dollari al barile, 99,45. E poi è tornata Goldman Sachs, la mitica Goldman Sachs che prese una cantonata memorabile nel 2008 quando previde un petrolio a 200 dollari al barile e poi dopo due mesi fallì Lehman Brothers e il petrolio scivolò a 45-50 dollari al barile. Vediamo se questa volta ci imbroccherà un po' di più, perché Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno rivisto al rialzo di oltre il 20% le stime sul prezzo del petrolio. Secondo gli analisti di Goldman Sachs, speriamo che li abbiano cambiati, nei prossimi 12 mesi salirà a 130 dollari al barile. Ripeto, quando il petrolio era a 149 dollari ad agosto del 2008, Goldman Sachs previse un petrolio a 200 dollari al barile. L'agenzia dei rating Standard & Poor's, certo nell'occhio dei riflettori in questi giorni. Comunque, oggi ha portato a negativo l'outlook, quindi le prospettive, su quattro gruppi bancari italiani: Intesa San Paolo, Mediobanca, BNL e Findomestic. Ancora l'altra agenzia di rating, Moody's, ha messo sotto osservazione per un possibile abbassamento di voto ben 14 banche britanniche, tra cui Bank of Ireland, Lloyds, Royal Bank of Scotland e Santander UK. Le borse vanno un po' meglio, ma non vanno meglio i rendimenti delle obbligazioni greche e irlandesi. Allora, sapete quanto rende un BTP greco a 10 anni? Il 17%, e quello a 2 anni, che è ancora più significativo, il 27%. Rende in teoria, perché voglio dire, è quello che il mercato secondario applica come prezzo. Nessun paese può fare un'emissione chiedere un prestito obbligazionario offrendo il 27% di rendimento, ma anche il 17% di rendimento. Sono prezzi, lo dico con la massima neutralità, sono prezzi da fallimento tecnico. E anche il rischio misurato da quanto costano i premi per le polizze per assicurarsi sul debito greco. Questi premi, i credit default swap, sono schizzati a 1.433 punti per la Grecia. Nel frattempo l'opposizione greca ha bocciato il nuovo pacchetto di austerity annunciato dal governo greco. Invece in Spagna le cose sono andate abbastanza bene, perché la Spagna ha collocato 2 miliardi e 300 milioni di obbligazioni, ma non vi è stato un aumento di tassi di interesse e dei rendimenti. E poi la notizia appunto dell'ultima ora, che è quella con cui vi riaggiorneremo alle 18.15, perché iniziano a trapelare delle fonti sempre interne al Ministero, le agenzie le riprendono, dovrebbe arrivare a metà giugno in Consiglio dei Ministri il decreto già annunciato per la manovra da 40 miliardi di euro, quindi la conferma c'è, per arrivare al pareggio di bilancio entro il 2014. Per l'anno in corso e per il 2012 si tratterebbe solo di piccoli aggiustamenti e di rifinanziamento di alcune leggi. Però qui 40 miliardi sembrano sui 3 anni, come li leggo io. Invece la Corte dei Conti ha detto 40 miliardi all'anno. Cercheremo di capire, certo, insomma, le fonti non ci aiutano. 349-238-6666 per i vostri sms. Di quanto è aumentato l'oro? Volete sapere? L'oro è a $1,516 l'oncia, quindi sostanzialmente fermo. Primo tema, la rabbia dei dipendenti di Fincantieri, comprensibilissima, comprensibili però anche le esigenze del gruppo. Il gruppo Fincantieri non vuole parlare, c'è un incontro fissato per il 3 giugno con il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani. Da qui partiamo per raccontare la cronaca della giornata economico-finanziaria. Sono scioccato, mi sembra che sia una giornata tristissima, è come se un mattino ti svegli e ti sembra che abbiano messo una croce rossa sulla tua città, sulla provincia. E allora, si sa come si possono salvare i cantieri, questi posti di lavoro? Beh, si salvano con una lotta dura e decisa da parte di tutti i lavoratori, a partire dalla Fincantieri, Riva Trigoso, non con le divisioni e col fatto che le istituzioni genovesi, questa città, alzi la testa. Non è stato un bravo amministratore il nostro amministratore delegato, è un problema di cattiva gestione, perché se avesse avuto l'occhio lungo come fanno in altre nazioni investendo su tutti i giovani di Castellammare, oggi non stavamo qua in queste condizioni sicuramente. A noi ci stanno uccidendo, i nostri figli sono morti, vergogna, vergogna! E noi ci aspettavamo una riconversione del cantiere, ma non la chiusura è proprio, ci sono uccisi. Ci hanno ucciso quasi 1500 famiglie. Le due sponde del problema. Genova, lo avete sentito e riconosciuto immagino anche dagli accenti, Genova, alcune voci della protesta, e poi quella ancora più virulenta, più forte, più disperata a Castellammare di Stabia. A Genova scontri, come vi ricordavo, i nostri GR davanti alla prefettura, feriti 2 operai e 1 agente, a Castellammare di Stabia preso d'assalto e devastato il municipio, i simboli dell'Unità d'Italia come i busti di marmo di Garibaldi e Vittorio Emanuele sono finiti in pezzi, obiettivamente non si capisce che cosa c'entri. Si sono salvati dal municipio di Castellammare di Stabia solo il crocifisso e il quadro del presidente Napolitano, ridotte in pezzi le scale di marmo, sfasciate, gettate negli angoli dei corridoi le sedie antiche, distrutte gli arredi storici, le scrivanie, i computer, le fotocopiatrici, cortei anche a Sestri Ponenti e Riva Trigoso. Allora, va detto che è comprensibilissima la protesta dei lavoratori di Castellammare, però devastare un municipio non porta da nessuna parte, lo dico molto chiaramente. Esistono altre forme di lotta democratiche riconosciute dai picchetti, agli scioperi, ai cortei. Dopodiché bisogna anche capire quale sia il problema della Fincantieri e vedere poi che tipo di ammortizzatori sociali può trovare il governo. Ieri, lo abbiamo raccontato, il gruppo ha annunciato l'intenzione di chiudere gli stabilimenti di Castellammare di Stabia e di Sesto Ponente a Genova, di ridimensionare Riva Trigoso a Genova per un totale di 2.500 licenziamenti su 8.200 dipendenti. La decisione è contenuta nel piano strategico 2011-2014, come conseguenza del dimezzamento degli ordini per le navi da crociera, soprattutto da 10-12 navi all'anno ordinate in Europa. Non tutte andavano a Fincantieri, però diciamo la metà almeno andava a Fincantieri. Siamo passati a 5-6 navi complessivamente ordinate in Europa e a Fincantieri ne vanno 2. L'intenzione di puntare maggiormente sui grandi yacht e sulle operazioni di manutenzione. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Sentiamo da questa scheda quale sia la situazione, ma anche come siano distribuiti gli stabilimenti del Fincantieri. E poi cerchiamo di capire, al di là della legittima protesta e anche disperazione, lo dico col massimo rispetto, ho solo detto che sfasciare un municipio, lo dico chi mi critica, non mi sembra, diciamo, una cosa che può produrre qualche effetto. Sentiamo qual è la situazione nei vari stabilimenti della Fincantieri nel paese. Colpirà soprattutto la Liguria e la Campania il piano Lacrime e Sangue, presentato da Fincantieri per far fronte al dimezzamento degli ordini registrato in quest'ultimo biennio di crisi. Su 8 siti produttivi del gruppo, 2 verrebbero infatti chiusi e 1 ridimensionato, per un totale di 2.551 esuberi, più di un dipendente ogni 4. A rischio stop è innanzitutto il sito napoletano di Castellammare di Stabia, il più antico cantiere del mondo ancora in attività, che oggi dà lavoro a 646 persone e dove si costruiscono navi da trasporto, ma non da crociera. In Liguria, regione dove lavorano oltre 3.000 degli 8.200 dipendenti del gruppo, è a rischio il cantiere di Sestri Ponente alle porte di Genova, dove 760 persone costruiscono navi da crociera. Dovrebbe essere ridimensionato poi il cantiere di Riva Trigoso, sempre in provincia di Genova. Vi lavorano circa 800 persone e si costruiscono navi militari e motori navali. La divisione militare e parte del personale dovrebbe essere trasferita nello stabilimento Spezzino di Muggiano. Salvi gli altri siti. Innanzitutto i cantieri di navi da crociera di Monfalcone e Marghera, rispettivamente 1.647 e 1.072 dipendenti. Non dovrebbe subire ridimensionamenti neppure il cantiere specializzato in riparazioni di Palermo, così come quello di Ancona, specializzato in navi da trasporto. Nelle intenzioni dell'azienda, il piano non è comunque un out-out e la cura dolorosa potrebbe essere mitigata dalla ripresa delle commesse. Al momento sono aperte trattative con Brasile, Emirati Arabi e Algeria e si spera che le annunciate richieste della Marina Militare Italiana si trasformino in ordini veri e propri. Allora, voi sapete che la cifra di questo programma, almeno mi auguro, è sempre stato l'equilibrio e non cavalcare le ondate emotive. Ripeto, visto che state scrivendo in molti al 349-238-6666, è comprensibilissima la rabbia di chi in una terra ad altissima disoccupazione, ad altissima penetrazione camorristica, in cui il tuo figlio, se non trova un lavoro, diciamo, ufficiale, va in un lavoro in nero e quindi rischia la collusione con la camorra, è comprensibile la rabbia degli operai. Questo vale anche per i genovesi e per gli... Dico semplicemente, cerchiamo di indirizzare questa rabbia verso forme che poi portino anche a un accordo, a una soluzione, non semplicemente a sfasciare il municipio, perché sennò di questo passo allora tutto viene legittimato. Che la rabbia sia anche nei confronti della classe politica e del governo, dei vostri messaggi, lo posso capire. È per questo che abbiamo sempre detto da 2 anni che sottovalutare il problema della crisi e dire che la crisi non c'era, che la crisi era già passata, che non si è mai capito com'è, che se non c'era poi è passata, e che comunque l'Italia era uscita meglio, era un ragionamento pericoloso, un ottimismo forse di maniera. Comunque, Gianni Dragoni, ascoltiamo anche Giovanni Sgambati della UILM, intervistato dal nostro Paolo Picone, che ha detto, attenzione, questo è solo l'inizio. L'esasperazione dei lavoratori di Castellammare giunge dopo 2 anni e mezzo di cassa integrazione. È evidente che le istituzioni locali devono svolgere un ruolo di pressione sul governo per cercare di far cambiare idea a Fincantieri, perché non possiamo far chiudere lo storico cantiere di Castellammare, che è in vita dal 1790. Allora, da un punto di vista industriale, Gianni, non voglio che tu ti sostituisca al ministro Romani né a quella che sarà la trattativa con Trabono, numero uno di Fincantieri, e Romani. Da dove arriva questa crisi? Perché la sensazione è che abbia colto i dipendenti impreparati. La crisi della Fincantieri origina in seguito alla crisi economica e finanziaria mondiale scoppiata nel 2008, quella che, come hai ricordato, secondo alcuni, secondo il governo, per un po' non c'era, poi era passata, in realtà non è ancora passata. Questo ha creato un crollo del mercato, diciamo, del consumo del mercato mondiale, soprattutto nelle crociere. Quindi la Fincantieri, che era diventata uno dei più grandi costruttori mondiali di navi da crociera, ha visto ridursi nettamente il suo mercato di riferimento. Poi c'è anche il mercato militare, in cui Fincantieri è un importante costruttore, che vede, diciamo, una tendenza anch'esso al ridimensionamento dei bilanci pubblici, ma è soprattutto una crisi del mercato delle navi da crociera che, quando era al boom, aveva consentito semmai di nascondere quelli che sono alcuni problemi strutturali risolti della Fincantieri, cioè quello di avere, purtroppo per i lavoratori, io qui non condivido le loro preoccupazioni e non voglio dare delle diagnosi, ma il gruppo Fincantieri purtroppo ha una produzione ripartita tra troppi stabilimenti, troppi impianti, quelli che poi, che siano da mantenere o no, lo decideranno altri, ma credo che si sia perso tempo in alcuni anni, in cui forse in questi ultimi anni, anche prima della crisi, nel cercare di avviare una ristrutturazione che certamente anche allora sarebbe stata comunque osteggiata dai sindacati e dai lavoratori, quindi una ristrutturazione non era facile. Allora, dopo il metro pubblicità, devo chiedere. Dunque, c'è chi mi contesta perché ho detto la rabbia porta solo distruzione, come fa la rabbia a portare ad un accordo, e c'è chi mi contesta perché dice che invece la rabbia è legittima. Boh. Dico semplicemente che la rabbia è comprensibile, e questo lo dico a chi invece fa discorsi un po' troppo da salotto, secondo me, via SMS, però indirizzarla contro un municipio non serve. Preferisco la battuta di chi dice sfasciare il municipio non serve, meglio occuparlo e sostituirsi al sindaco, ecco, se vogliamo buttarla in maniera anche un po' amara ma ironica. Dopo il metodo e la pubblicità, Gianni, però vorrei capire, tu dicevi il ridimensionamento dei cantieri. Notiamo che, per esempio, alcuni cantieri che fanno comunque, come Ancona, navi da trasporto, non vengono toccati, mentre le stesse navi da trasporto che vengono fatte a Castellammare di Stabia viene chiuso lo stabilimento. Ricorda un po' un ragionamento che fece la Fiat, cioè non tutti i siti produttivi possono essere mantenuti. Vorrei capire se questo, dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri SMS. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento su Fincantieri. Devo dire una cosa, allora va bene tutto, però alcuni messaggi. La rabbia dei licenziati è legittima, secondo lei è legittima solo l'avidità degli industriali, dei banchieri, degli speculatori? Abbiamo fatto decine di puntate contro l'avidità, ma ve lo ricordate Gordon Gekko? L'avidità delle banche d'affari, degli speculatori, per cui non dite a noi che l'avidità rovina e la rabbia non è comprensibile. Ancora c'è chi dice lei esprime opinioni personali. Non sono opinioni personali di ricordare che il governo per 2 anni non ha riconosciuto l'esistenza della crisi, ha detto che era passata. Non sono opinioni personali di ricordare che gli operai della Fincantieri hanno distrutto oltre che i comuni busti di Garibaldi e di Vittorio Emanuele II. Sono d'accordo che ci fosse un esempio, una volontà simbolica, essendo, come ricordava la nostra scheda, il più vecchio cantiere al mondo ancora operativo. Ma insomma, Gianni, questo ridimensionamento, mutatis mutandis, si ricorda un po' il piano di Marchionne per la Fiat sul territorio o no? Secondo me è diverso il punto di partenza, nel senso che il problema del mercato, della forte contrazione del mercato delle navi è un problema diverso da quello del mercato dell'auto, in cui la Fiat magari perde quote di mercato in Europa, vende meno automobili, ma altri invece aumentano le vendite, anche se certo non è un mercato florido. Tu prima hai ricordato lo stabilimento di Ancona, è vero, questo piano, per come lo conosciamo, non è ufficiale ma non viene smentito, colpisce soprattutto uno stabilimento in un'area dove la disoccupazione è più alta, cioè in Campania, oltre che anche in Liguria, fa salvi altri stabilimenti, diciamo, del nord, Mar Tirreno, sull'Adriatico, e anche comunque uno stabilimento a Palermo che invece in passato era stato a volte indicato come un possibile, diciamo, impianto a rischio. Quindi è un piano probabilmente che tiene conto di compromessi, di situazioni difficili. Io ripeto, credo che la Fincantieri il problema di aumentare l'efficienza lo avesse già da prima. Ecco, già su, da prima, infatti su questo Gianni mi sembra che la diversità sia anche questa, con massimo rispetto per la Fiat. La Fiat aveva un problema di produzione di modelli di competitività sui mercati. Fincantieri, possiamo dirlo, è un'azienda ben gestita, ma soprattutto che aveva una grossa capacità di vincere le gare. Ricordavamo ieri, metà delle navi da crociera che venivano appaltate ai cantieri europei finivano da noi. Questo tu lo condividi, cioè che il gruppo sia un gruppo... Sostanzialmente sì, adesso diciamo che gli ultimi anni purtroppo con dei risultati negativi dovuti anche al calo delle commesse, alla crisi, cosa sia successo esattamente nella gestione non sono in grado di dirlo in modo analitico, ma non diciamo che la Fincantieri comunque almeno dalla fine degli anni 90, quando già aveva avuto una certa crisi, era stata rimessa a posto bene, e all'epoca era Gualguaglini che l'amministrava, poi passato alla Finmeccanica, al suo posto è andato Bono dalla Finmeccanica, che è l'attuale. La Fincantieri ha continuato ad andare bene, poi è tornata una crisi però del mercato. Il problema dell'industria cantieristica europea, e questo non riguarda solo l'industria italiana, ma anche ad esempio la Francia, che ha un fior di industria cantieristica, è legato alla difficoltà a competere a livello mondiale con i produttori più aggressivi dell'Estremo Oriente, in particolare i coreani. Infatti i coreani hanno anche conquistato qualche anno fa una parte di cantieri francesi attraverso l'acquisto di una società norvegese. Quindi ci sono questi problemi generali, adesso c'è un mercato che compra meno navi, e quindi i produttori come tali devono ridimensionarsi, che poi gli operai a volte chiedono riconversione, altre cose, questi ovviamente sono ipotesi che richiedono nuovi piani industriali, nuove attività. Come attività cantieristica certamente la Fincantieri forse negli ultimi tempi può anche avere, diciamo, sottovalutato qualche problema, non averlo affrontato, ma solo perché bisognava intervenire con dei tagli, non perché c'erano delle opportunità da sfruttare che non sono state colte. Sì, va detto che nel caso di Castellammare di Stabia c'è proprio la chiusura dell'impianto, lo dico anche a chi scrive, non è la cassa integrazione o il licenziamento di alcuni dipendenti perché mancano gli ordini. Lì l'impianto lo vogliono chiudere, così come vogliono chiudere quello genovese, per cui la parte che riguarda appunto Genova, nel caso specifico Sestri Ponente, e ridimensionare Riva Trigoso. Forse un po' più di comunicazione, lo dico perché abbiamo parlato in questi giorni spesso con l'ufficio stampa di Fincantieri, però riuscire ad avere anche qualche informazione in più da loro, non dico parlare subito con Bono, ma insomma avere qualche altro motivo. È arrivato un po' a ciel sereno come notizia, questo, se posso permettermi una critica anche sulla comunicazione in generale. Grazie a Gianni Dragoni, il traffico, poi la borsa e poi, prima di arrivare ai conti pubblici, anche il tema del, oggi c'è un importante rapporto del Centro per gli Studi sugli alimenti della Barilla, che fa anche le stime e le previsioni sulle necessità alimentari dei prossimi anni. 349-238-6666 per i vostri sms. Avevo detto e avevo promesso anche che avremmo trattato il tema di Malpensa e della Lufthansa che cambia la strategia in Italia, degli aerei spostati negli hub tedeschi, cioè, però la SEA, la Società Aeroporti di Milano, dice nessun rischio per Malpensa dall'addio di Lufthansa, ci sembra una posizione così di maniera e di forma. Investigheremo la notizia, appunto, che tra l'altro incide per un 3% la Lufthansa sul fatturato del gruppo Aeroporti di Milano, che la flotta attiva a Malpensa, 9 Airbus A319, che hanno trasportato nel 2010 1.200.000 passeggeri, si sposterà di nuovo sulla Germania, cioè questo per quello che riguarda Malpensa, non Linate. Forse non hai capito, scrive un ascoltatore, all'interno del tuo ufficio bello fresco che la gente non ne può più. Guardi, probabilmente non capisco molte cose, devo dire che facendo questo programma da 10 anni e ricevendo qualche centinaio di sms al giorno, forse capisco più il polso degli ascoltatori di certa classe politica, se mi permette questa battuta, e anche di certi manager o amministratori delegati di gruppi bancari, finanza e quant'altro. La borsa. Paolo Paronetto, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Milano più 0,24, Parigi più 0,25, Francoforte più 0,41, Londra più 0,26, euro su dollaro a 1,41,11. Di nuovo sotto pressione le banche in Italia, anche perché piove sul bagnato e abbiamo visto un nuovo intervento di Standard & Poor's a dire ci sono tre banche su cui stiamo valutando che voto dare, con prospettive di abbassare il livello del voto. Ha rivisto infatti a negative le prospettive per Intesa San Paolo, Mediobanca, BNL e Findomestic, 4 gruppi bancari. Paolo. Sì, esattamente, le banche che sono rimaste sotto pressione anche nei giorni scorsi tra i settori più colpiti in seguito alle tensioni sul debito pubblico di alcuni paesi dell'Eurozona, oggi sono tutte in coda al listino principale proprio anche per questa ragione. Come ricordavi tu, SP ha tagliato l'outlook su queste 4 banche, e così a Piazza Affari il Banco Popolare, la peggiore tra le blue chip, in calo dell'1,48%, poi la Popolare di Milano in calo dell'1,32%, poi Intesa San Paolo, che è appunto una di queste 4, in calo dell'1,6%, e via e tutte le altre. Appunto, i titoli sono sotto pressione ormai da giorni, e anche oggi sono la ragione principale che ha zavorrato il listino milanese. Quindi le borse europee, anche in seguito a questo andamento del settore bancario, dopo il tonfo di ieri, sono riuscite a mettere a segno soltanto un lievissimo rimbalzo, con rialzi appunto molto contenuti. Fiat, visto che questa sera arriverà la restituzione di 7 miliardi e mezzo di dollari da parte di Sergio Marchionne e Barack Obama, un bel assegno verrà staccato, la Fiat salirà al 46% della Chrysler, il titolo. Il titolo è stato sotto i riflettori proprio in seguito, in vista di questo appuntamento, è stato tra i migliori delle blue chip, ha guadagnato il 2,6% questo Fiat SPA, quindi quella dell'attività dell'auto, ma sono andate bene anche Exor, la sinistra di riferimento, in rialzo dell'1,43%, e proprio in serata è atteso la comunicazione ufficiale del rimborso degli aiuti pubblici al governo statunitense e canadese, che spiana la strada per la salita da parte di Chrysler, che spiana la strada per la salita di Fiat al 46% della società americana, naturalmente quindi un passo avanti nella strategia del gruppo. Dichiarazioni su Edison oggi del neo numero uno, anzi del presidente di EDF, che assieme a A2A sono i due soci che controllano Edison, Henri Proglio a Le Monde, e il titolo ne risente. Esattamente, Proglio in un'anticipazione. Proglio. Anche se secondo me è di origine italiana, comunque certo, Proglio. In un'anticipazione di un'intervista a Le Monde è stato appunto anticipato che ha ribadito l'intenzione di voler rafforzare la posizione di EDF all'interno di Edison. Questo naturalmente ha portato beneficio al titolo, che dopo una mattinata poco mossa ha chiuso in rialzo del 5,13%. Naturalmente quindi si torna a speculare su quale potrà essere la soluzione dell'attuale impasse su Edison. Ricordiamo che di recente EDF ha 2 anni ha prorogato i patti sociali fino al 15 settembre proprio in vista di una possibile intesa su come sbrogliare questa partita. L'intenzione di EDF di voler acquisire il controllo della società naturalmente apre strada a diverse ipotesi, la borsa ne ha approfittato per prendere posizione sperando magari in qualche operazione proprio di acquisizione del controllo sulla società. Ancora molto bene Saipem oggi, al di là di Fiat di cui abbiamo detto, e TODS, più 2,86 TODS, più 2,50 Saipem. Saipem appunto è stata tra le migliori seguendo il trend di tutto il settore energetico in tutta Europa, il sottoindice del comparto a livello continentale ha guadagnato lo 0,8%, al trend dell'andamento del petrolio che in questo momento sta guadagnando circa il 2%, e a spingere il greggio sono state l'annuncio che alcune banche d'affari hanno alzato le proprie stime sul prezzo del petrolio nei prossimi 12 o anche 24 mesi. In particolare è stata Goldman Sachs che ha alzato le stime sul prezzo del WTI a 12 mesi a $126.5, mentre la previsione precedente era di 104, quindi un deciso incremento, mentre per quello del Brent ha visto addirittura $130 tra un anno contro una stima precedente di 107. Quindi tutto il settore ha guadagnato terreno, Saipem è la migliore più 2,5%, ma ad esempio anche l'Eni ha guadagnato quasi l'1%, per la precisione lo 0,93%. Per quanto riguarda invece TOTS non c'è nessuna ragione specifica e gli operatori segnalano che il titolo aveva perso oltre il 5% nelle ultime 2 sedute, quindi si tratta di un rimbalzo tecnico, è stato il migliore tra le blue chip ed è salito del 2,86%. Ancora chi è andato bene, Luxottica più 1,60, Pirelli più 1,70, Azimut più 1,60, di Fiat abbiamo detto anche Industrial guadagna l'1,5, Exor l'1,40, Tenaris più 1,20, Snam più 1,1, Eni più 1%, tra chi ha perso oltre alle banche anche Steam Microelectronics meno 1%, Telecom Italia lo 0,60 come generali, migliori e peggiori in assoluto, oltre a Edison molto bene, Casa Damiani più 12,5, EAF più 13,20. Molto male Kerself meno 8,80, Merck Nimon meno 7,80%, Esprinet meno 4,30%. Giustamente alcuni ascoltatori, intanto ringrazio Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore, alcuni ascoltatori fanno notare al 349-238-6666 che ci potrebbe, cioè, il ragionamento va fatto anche sull'indotto di Fincantieri, i fornitori di Fincantieri. Avete ragione, che dire, oggi Fincantieri, poi parleremo della manovra da 40 miliardi, potrebbe andare anche peggio. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Vabbè, ci sentiamo dopo il GR. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Giustamente arrivano molti messaggi sulla vicenda Fincantieri, a cui abbiamo dedicato un'ampia parte della prima ora. Giustamente molti piccoli imprenditori e anche lavoratori fanno notare che quando chiudono, falliscono o arrivano i licenziamenti nelle realtà della piccola industria, 25 dipendenti, 20 dipendenti, ci sono decine di messaggi su questo, ce ne occupiamo molto meno, ed è vero, nel senso che fanno più notizia 2500 licenziamenti tutti in una volta, come capita nel caso di Fincantieri, che non 100 licenziamenti da 25 persone ognuna. È brutto dirlo, ma è così, avete ragione, ed è vero che il mondo della piccola industria in questi 2 anni ha attraversato una ristrutturazione pesantissima senza che vi fosse forse una copertura anche dei media adeguata, forse in alcuni casi non se ne voleva parlare, nel caso nostro no, è semplicemente una colpa. Detto questo, vorrei adesso cambiare tema e parlare del rapporto della Barilla, che come ogni anno viene stilato dalla Barilla, dal Barilla Center for Food and Nutrition, sulle nuove sfide geopolitiche ed economiche nell'accesso al cibo. Ne parliamo perché il rapporto lo stanno presentando in questo momento a Parma. lo abbiamo ricordato più volte, al di là dei dati della FAO, cioè in questo mondo ci sono 925 milioni di persone che soffrono la fame, è un numero identico, un miliardo, che invece sono in sovrappeso. Anche lì è chiaro che se sei in sovrappeso forse i chili li butti giù, se ti mancano è abbastanza difficile che tu li riesca a mettere su. Ma oltre a questo, l'allarme è arrivato dal livello delle scorte: meno 46% dal 2000 al 2009 le scorte di grano, meno 49% quelle di riso. L'indice della FAO sui prezzi dei beni alimentari, che rappresenta 55 materie prime, nel frattempo è schizzato ai livelli più alti, quasi vicino al record da sempre, 232 punti. Al di là dei punti e delle cifre, la cosa importante da ricordare è che i cereali viaggiano ai massimi dal giugno del 2008 come prezzo, le quotazioni del mais nel caso specifico hanno raddoppiato il valore negli ultimi 12 mesi, il grano ha fatto più 57% e i semi di soia un più 39%. Dicevo, di questi temi si sta parlando nel seminario organizzato dal Barilla Center for Food and Nutrition. Noi abbiamo raggiunto, prima che iniziasse la sua relazione, il suo commento, il professor Andrea Bolto, che insegna all'Università di Oxford, e gli abbiamo chiesto insomma, qual è la differenza rispetto a un tema che, mi dispiace dirlo, purtroppo è un tema scontato, un tema che sentiamo ripetere da 30 anni, la fame nel mondo. Gli abbiamo chiesto anche se esistono elementi nuovi, c'è chi ha addirittura evocato i prezzi dei cereali come parziale giustificazione delle rivolte del Nord Africa. Certamente, che alti, brutali aumenti dei prezzi, come li abbiamo già avuti nel 2008 e di nuovo 3 anni dopo li abbiamo questa volta, contribuiscono a incertezze politiche, contribuiscono a rivolte, ci furono rivolte della fame nel 2008 in paesi produttori di riso, ce l'ho state questa volta. È un problema relativamente recente perché per un lungo periodo i prezzi delle materie prime alimentari diminuivano, non aumentavano, e la produzione agricola alimentare aumentava ben più della popolazione. Il problema che si pone il Barilla Center è che magari queste cose potrebbero cambiare. Fa delle previsioni che sono relativamente pessimiste. Dice che c'è la forte probabilità che i prezzi a lungo andare continueranno ad aumentare e non a diminuire come hanno fatto in passato. Perché aumentare? Due motivi principali: non cresce la popolazione, ultime stime delle Nazioni Unite suggeriscono più 35% di popolazione da qui al 2050, e dall'altro crescita dei redditi di molta gente che sino ad ora era povera. La forte crescita dei paesi emergenti crea forti domande di cibo, e questa è un'ottima notizia, questo è meraviglioso, che la gente diventi più ricca, ma potrebbe sottoporre le quotazioni del cibo a pressioni verso l'alto, perché dall'altro lato, teme Barilla, l'offerta non potrebbe non tenere il passo. Perché non dovrebbe tenere il passo? La crescita della produttività del suolo, che era stata molto rapida negli anni 60-70, la cosiddetta rivoluzione verde, si è quasi fermata, e non sembra che ci siano oggi come oggi nuove tecnologie altrettanto rivoluzionari. In più, erosione dei suoli, urbanizzazione, carenza d'acqua, uso di terre agricole per la produzione di biocarburanti potrebbero ridurre l'offerta di terra coltivabile dal 5 al 25% a orizzonte 2050. La produzione del 2030, la terra disponibile potrebbe diminuire di addirittura 5, 10, 15, 20%. È chiaro che c'è una possibilità di fortissima tensione. Quindi lei dice, da un lato c'è questo un aumento demografico più o meno del 30% nei prossimi anni, con riduzione del suolo che va dal 5 al 25%, però mi interessava anche l'altro suo ragionamento, cioè non è la prima volta che assistiamo a boom demografici, voglio dire l'Europa stessa, gli Stati Uniti e tutti i paesi occidentali dagli anni, dal dopoguerra in poi, conobbero un vero e proprio boom demografico, oltre che economico, e quindi non solo più bambini, ma anche più bambini che mangiano di più, che mangiano meglio, e più adulti che mangiano di più e mangiano meglio. Allora però la risposta, se ho ben capito, professor Bolto, arrivò dal mondo della chimica applicata all'agricoltura. Arrivò dal mondo della tecnologia più in senso ancora più sì, lato. È vero. E questo è una ripetizione di cose che sono passate nel passato. Lei diceva negli ultimi 50 anni, ma Camaltus e Ricardo, due secoli fa, che cominciarono le previsioni catastrofiche su un mondo che non poteva più nutrirsi. Il Conte di Roma 35 anni fa disse la stessa cosa. fino ad ora ce la siamo sempre cavata, ci sono state carestie, ma sempre locali. A livello globale la produzione alimentare è aumentata più rapidamente della popolazione, e questo è stato dovuto soprattutto al fatto che il progresso tecnologico ha continuamente migliorato i rendimenti del suolo. E non è detto che questo non possa succedere a orizzonte 2050. Il fatto che il prezzo delle materie prime alimentari sia aumentato talmente rapidamente, talmente forte, stimola e la produzione e anche la ricerca tecnologica. Quindi è meglio essere preparati al peggio, ma non è detto che il quadro fosco, conturbante che presenta Marilla necessariamente, speriamo che si sbagli. Andiamo bene, proprio bene. Eh sì, anche oggi è giornata della sorella e adesso capirete perché, perché l'ultimo tema di questa puntata, è, come vi avevo anticipato all'inizio, riguarda la notizia forse più forte di oggi assieme a Fincantieri, e mi riferisco alla manovra correttiva, vogliamo chiamarla così. Nel senso che la Corte dei Conti oggi ha detto, per rispettare i vincoli che ci pone l'Europa e a cui l'Italia ha detto sì, occorre fare una manovra da 46 miliardi di euro l'anno per tre anni, cioè sono 46 miliardi, un intervento del 3% all'anno, pari a circa 46 miliardi. Il governo poco fa, o meglio in discrezione di fonte governativa, hanno fatto sapere circa un'ora fa che a metà giugno dovrebbe arrivare invece il decreto in Consiglio dei Ministri con una manovra da 40 miliardi per l'anno in, si tratterebbe di 40 miliardi non tanto per l'anno in corso e per il 2012, quindi immaginiamo per il 2013. Attenzione, quello è un anno elettorale, manovre in anni elettorali si sono viste molto molto raramente in questo paese e anche in altri paesi. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Kuwait, il migliore amico di chi guida. Trasmetto da una stazione Kuwait, cercami. Vi presenta Strade in diretta. Sull'autosole si rallenta per un incidente tra Modena Sud e il bivio per la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova ci sono code per un veicolo fermo in avaria tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Nella stessa direzione sulla 4 ci sono rallentamenti e code per lavori tra Sirmione e Peschiera. Code per lavori anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e Savona in direzione Genova. Traffico in aumento attorno alle principali città, ci sono rallentamenti e code in particolare in uscita da Roma, Milano, Genova e Napoli. In Campania disagi nel napoletano sulla statale Sorrentina per una nuova protesta degli operai di Fincantieri tra i comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense. Ed è tutto per il momento e il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Promo 24. La pensione pubblica si va riducendo. Per questo oggi è importante poter contare su una pensione integrativa. I metalmeccanici hanno realizzato Cometa, il fondo pensione di categoria senza scopo di lucro, che in modo qualificato e conveniente assiste i lavoratori per costruire una pensione integrativa e vantaggiosa. Fino a oggi, oltre 460.000 metalmeccanici hanno pensato al futuro e protetto la propria pensione aderendo a Cometa. Per saperne di più, www.cometafondo.it. Messaggio promozionale sulle forme pensionistiche complementari. Per aderire, prendere visione della nota informativa e dello statuto. Focus Economia. Allora, vediamo di fare un po' di chiarezza, perché sono due i fronti. Da un lato è l'intenzione del governo, confermata oggi da varie fonti, c'è un articolo sul Financial Times, di portare entro il 2013 il deficit allo zero. Siccome in questo momento il deficit vale intorno un po' più del 3%, la stima è di circa 40, una manovra di 40 miliardi, sperando che appunto, oltre che ridursi le spese, ridurre il deficit, aumenti anche il PIL. Comunque, intorno ai 40 miliardi. Questo è l'obiettivo, citato oggi dal Financial Times, che cita fonti governative, in discrezione di questo pomeriggio, che a metà giugno arriverà un decreto al Consiglio dei Ministri che spiegherà come si arriverà al deficit zero nel 2013. Altra cosa, invece, è quello che chiede l'Europa, ossia di ridurre di un ventesimo all'anno il debito, quindi la somma di tutti i deficit più gli interessi pagati, di un ventesimo all'anno tutta la parte di debito che eccede il 60% del PIL. Visto che il nostro debito viaggia intorno al 115% del PIL, anche un po' di più perché 115 era il pre-crisi, siamo al 119%. Un ventesimo di questo 60% significa 46 miliardi di euro l'anno. Questa è la differenza tra le due notizie, e su questo il commento e l'intervento del Presidente della Corte dei Conti oggi, Luigi Mazzillo. Si sofferma sulla considerazione dell'eredità dei condizionamenti dovuti agli effetti permanenti causati dalla grande recessione del 2008-2009, evidenziando come si sia verificata una perdita permanente di prodotto calcolata a fine 2010 in 140 miliardi e prevista crescere a 160 miliardi nel 2013. Si nota poi che gli andamenti del 2010, per quanto positivi e con riferimento alle spese finanche straordinarie nella prospettiva storica di lungo periodo, conservano comunque un'innegabile criticità. La dimensione della spesa totale sul prodotto resta quasi 3 punti al di sopra del valore del 2007, 3,5 punti per la sola spesa corrente, e il ripristino dei valori programmatici necessita di una consistente azione di natura discrezionale. Andiamo bene, proprio bene. Professor Giacomo Vacciago, buonasera. Buonasera a tutti. Le piace la sorella? Sì, non è male. E poi le faccio sentire anche Frankenstein Junior, perché potrebbe andare anche peggio. Comunque, sentiamo invece, tornando a essere seri, il ministro Tremonti, un brevissimo, laconico commento sulla relazione della Corte dei Conti, che appunto ha detto che sostanzialmente il PIL italiano in questi anni, da fine 2010 al 2013, avrà una perdita permanente di prodotto in 140 miliardi, destinata a crescere in 160 miliardi nel 2013. Il ministro Tremonti, che ha detto, insomma, non mi sembra certo un discorso da happy hours, scherzando, e poi così ha commentato la Corte dei Conti. Forse la crescita di questo paese non è sufficiente, certo che non è sufficiente, però credo che potete immaginare che senza la tenuta del bilancio non ci sarebbe stata neanche questa insufficiente crescita. E poi ha aggiunto: prima vivere, poi crescere. Allora, sono due cose diverse, Vacciago. Da un lato il governo che vuole portare il deficit a zero nel 2013, e questo vuol dire una manovra in 3 anni di 40 miliardi. Dall'altra parte gli obiettivi europei di portare il debito, di ridurre il debito di un ventesimo all'anno nella parte che cede il 60%, e questo vuol dire 46 miliardi di euro all'anno. Allora, risulta chiaro a chiunque persona che mentre l'obiettivo del deficit forse si può raggiungere, anche se il 2013 è un anno elettorale, quello di 46 miliardi all'anno come facciamo? Vacciago? Beh, come facciamo? Quella stima, che peraltro conosciamo da marzo, perché è a fine marzo che a livello di capi di Stato e di Governo, e quindi è andato il Presidente del Consiglio Berlusconi a Bruxelles, dal 25 di marzo l'accordo a Bruxelles è in 20 anni, e non mi dite che non si può, perché in 20 anni se ne possono fare tante cose. Noi riduciamo della metà il rapporto debito-PIL. Lo puoi fare in due modi o loro combinazione: lacrime e sangue, tagliando il numeratore, il debito, oppure, come fanno i tedeschi più saggiamente, crescita, cioè facendo aumentare il denominatore. Dobbiamo deciderci, appunto. Se non facciamo crescere di più l'economia, e il ministro è già rassegnato che sogniamo solo il male minore, cioè la tenuta dei conti. Attenzione, in 20 anni possiamo fare di più che limitarci a tenere i conti negli anni difficili. E in ogni caso, politicamente, io consiglio a chiunque voglia governare sto paese: non chiedete alla gente di sognare il male minore, non vale la pena, tanto vale fare sogni più ambiziosi. Draghi ci ha ricordato che tagliando del 7% le spese pubbliche e scegliendo con cura quelle che non sottraggono crescita, noi l'aggiustamento lo possiamo fare. Beh, coraggio, però attenzione che questo significa il contrario dei tagli lineari. Significa, ahimè, e qui c'è il problema politico che sotto elezioni è difficile farlo, significa, ahimè, tagliare con il buon senso, ma sempre i tagliati si lamenteranno. Non c'è euro speso che non sia reddito per chi lo riceve. E quindi anche se è spreco in termini di crescita del paese, quello che lo riceve è contento e quindi devi saperlo che avrai la lamentele. Certo. Draghi, il governatore della Banca d'Italia, Draghi ci ha anche ricordato quale crescita servirebbe per ridurre di 5 punti percentuali il debito. Il ragionamento di Vaciago, visto che ce lo chiedete, è molto semplice. Il debito e il deficit non sono dei numeri secchi, sono anche dei numeri secchi, ma sono un rapporto. Cioè si dice quanto deficit hai in rapporto al tuo PIL o quanto debito hai in rapporto al tuo PIL. È chiaro che o riduci il numeratore, cioè la parte alta della frazione, o aumenti la parte bassa, il denominatore, perché in questo modo il risultato finale si riduce. Una o l'altra, o possibilmente tutte e due, sentiamo quanta è la crescita secondo Draghi. Nell'ambito del rafforzamento di questo patto si propone ora una regola numerica che imporrà tra qualche anno ai paesi con debiti superiori al 60% del prodotto, cioè a noi, anche a noi, di ridurre lo scostamento del 5% ogni anno. Analisi della Banca d'Italia mostrano che per l'Italia la variabile fondamentale per soddisfare questa regola è l'intensità della crescita economica. Se la crescita approssima il 2% annuo, la regola sul debito risulta soddisfatta se è rispettata quella relativa al pareggio di bilancio. In altre parole, la riduzione del debito che ci si chiede non è drammatica se cresciamo intorno al 2%. Per fare quel taglio del debito è un taglio sostenibile se cresciamo del 2%. Professor Vaciago, mi dice due cose, due che lei farebbe, o due tagli che farebbe per, appunto, pur scontentando parte dell'opinione pubblica, per portare la crescita a essere più produttiva e comunque ridursi la spesa pubblica? Allora, vietare le fotocopiatrici e smetterla di usare la carta carbone. C'è internet da 15 anni. Questo già allevierebbe un mare di carte che girano nel paese con raccomandate, con avviso di ritorno, tutte quelle carte in cui affoghiamo quotidianamente gli uffici. Rendere obbligatorio l'uso delle tecnologie moderne. Con internet puoi risparmiare tanto tempo e tanto denaro che chi lo fa in modo sistematico riesce a crescere ben più del 2% all'anno. Sì, ma lei è convinto che una manovra del genere potrebbe, una misura del genere potrebbe portare un beneficio così rilevante? Accidenti, hai in mente cosa vuol dire smettere di fotocopiare tutti i documenti, metterli in buste, portarli alla posta e spedirli? No, non scherzo. No. Io non ricevo posta dall'America da 5 anni, solo via elettronica. E non perché non ha più amici, chiaramente. Grazie a Giacomo Vaciago. Anche oggi una puntata che è partita con Fincantieri, che è andata avanti con la borsa e poi la manovra correttiva. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. E invece c'è il sole. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.